Appuntamento è fissato per il 7 luglio, il punto di partenza sarà quest'anno inedito per la storia dei Pride, che è i Giardini Margherita, e da quella postazione faremo un giro fino a conquistare, diciamo, il simbolo della città, cioè le torri, e poi ritorneremo ai Giardini Margherita. Un ingrediente nuovo, oppure non del tutto nuovo, ma che ritorna nel Pride di Bologna, è quello dei carri con la musica, che sono tradizionali, diciamo, nel format Pride in tutta Italia. Bologna fece a meno dei carri dall'anno del terremoto dell'Emilia, in forma di sostegno e solidarietà alle zone terremotate, e poi mantenne questa scelta come scelta, diciamo, di sostenibilità. Abbiamo, come dire, riflettuto sulla necessità di riportare questo ingrediente come collante della manifestazione, anche come voglia di essere un po' più indecorose, un po' più rumorose, come giusto essere di questi tempi, diciamo così, di forte resistenza. È un Pride che ha scelto uno slogan particolare, corpi resistenti, che è un modo di attualizzare la lotta alle oppressioni, cioè quella che ci viene dalla resistenza delle partigiani, e riattualizzarla in un momento come quello che attraversiamo oggi, che di resistenza ha molto bisogno, e soprattutto rimettiamo al centro il corpo, che è ancora purtroppo campo di battaglia, luogo di oppressione, e che ha bisogno di essere portato in piazza come elemento di forte mobilitazione. Lo facciamo proprio nell'anno in cui l'Italia ricorda i 40 anni dell'approvazione della legge per l'interruzione di gravidanza, perché quel diritto non è ancora garantito e perché, come quello, tanti altri diritti hanno ancora bisogno di vedere la luce. Parlando appunto dei tempi in cui viviamo, diciamo, sono anche tempi politicamente particolarmente difficili, al di là dei 40 anni dall'interruzione di gravidanza, e in particolare su questo tema, visto che con Salvini, ministro degli interni, in alcuni altri Pride già si sono viste grosse delegazioni anche a sostegno dei migranti e contro le frontiere, come coniugherete voi queste tematiche? Ma il Pride di Bologna è sempre stato un Pride collettivo, ha sempre fatto rete con le associazioni che si occupano e che includono, diciamo, migranti LGBT. La New Entry di quest'anno è il Grande Colibrì, che è un'associazione nazionale che quest'anno sta riaprendo, come dire, un avamposto a Bologna, che proprio di queste tematiche si occupa. Ma non solo, è importante il lavoro di rete fatto quotidianamente, che porta, come dire, a concentrare nella giornata del Pride il risultato di questi lavori. C'è anche un altro elemento, le seconde generazioni, che sono un tema per noi molto importante, perché rischiano di essere schiacciate in una situazione di invisibilità dello ius soli, ma non solo di quella, varie tensioni sociali, e che fanno parte delle nostre comunità a pieno regime. Tra i nostri volontari ci sono ragazzi e ragazze con nomi molto particolari, che raccontano storie alle loro spalle. Questo nuovo modo di essere città, questo nuovo modo di essere comunità, ha bisogno di essere innanzitutto visibile. Nei giorni che hanno portato alla preparazione del Pride abbiamo attraversato molti percorsi di riflessione. Uno di quelli è stato, per esempio, la presenza a Bologna di Marta Dillon, cioè della fondatrice di Non Una di Meno in Argentina, di una delle grandi protagoniste della mobilitazione per l'aborto in quel paese, e proprio con Marta abbiamo chiacchierato a lungo della necessità di costruire reti orizzontali per arrivare e ritornare a riempire le piazze con i grandi numeri e con grandi voci. In Argentina questa mobilitazione ha portato 1 milione di donne, e proprio pochi giorni dopo il nostro Pride arriverà in quella terra il voto conclusivo per quella legge. Quindi essere in piazza vuol dire innanzitutto trasmettere un sostegno a tutte le altre piazze che in tutto il mondo si muovono per la rivendicazione dei diritti, ma vuol dire anche imparare a ricostruire quei tessuti che oggi vacillano, che oggi sono deboli, sono fragili, che sono stati, e quella fragilità è stato il primo viatico per aprire le porte alle destre, per spianare la strada a chi oggi ci chiede di chiuderci, chiudere porti, chiudere menti, chiudere braccia nell'accoglienza. In alcuni Pride precedenti ci sono poi state alcune segnalazioni anche di interventi della polizia per limitare, diciamo, alcune espressioni in contrasto con il governo, con l'attuale governo, per esempio. Voi vi aspettate qualcosa del genere a Bologna? Ma guarda, il Pride Bologna ha una caratteristica forte, diciamo, anche sul panorama nazionale. È un Pride che sceglie ostinatamente di non raccogliere risorse da sponsor, per esempio, ma neanche di chiedere i patrocini alle istituzioni. Questo è una scelta non ostile nei confronti delle istituzioni, ma una scelta di metodo, una scelta identitaria. Non siamo strumentali nelle battaglie elettoralistiche, noi siamo di sostanza. Per noi è tanto problematico il governo che ha come ministro degli interni oggi Salvini, altrettanto lo sono state tutti quei provvedimenti che la sinistra ha fatto e che ammiccavano, strizzavano l'occhio alle pratiche di Salvini. Non ci aspettiamo elementi di censura. Io credo che il prendersi le piazze sia il primo antidoto, no, per evitare l'oppressione. I numeri nelle piazze sono il primo antidoto per evitare l'oppressione. E il nostro Pride è sempre stato un Pride con una voce molto forte, con grandi scritte, grandi cartelli. Quelle voci ci saranno e soprattutto ci saranno molti corpi. Abbiamo scelto di rimettere al centro il corpo proprio anche per contrastare quel tentativo che c'è sempre di riposizionare il Pride in una formula più politicamente corretta, quindi vestitevi bene, non denudatevi, tutte queste cose che si sentono sempre quando c'è il Pride. Il Pride è un grande momento di libertà, è la risposta di una comunità a anni di oppressione ed è un principio e un bisogno ineludibile. Ed è anche un grande momento comunitario, un grande richiamo comunitario.